era un musicista e lei nacque il sorriso, suoni di un altro mondo al ritmo di un tango, fu subito incanto, fu amore a prima vista di quelli che il destino ogni tanto lascia fare. Talmente sono belli, talmente sono cuore. Padre, padre, padre, datemi la benedizione, non lasciate morire di sete il mio cuore, il mio amore, il mio cuore, il mio amore. Ma il mondo non si cura di chi ha l'anima pura e graffia la sua arroganza e sputa intolleranza e uccide ogni speranza. Per te ho altri progetti, dimentica i tuoi grilli, di musica non si campa, non si mantiene una famiglia, dimenticalo, mia figlia. Padre, padre, padre, datemi la benedizione, non lasciate morire di sete il mio cuore, il mio amore, il mio cuore, il mio amore. Alla durezza del padre la figlia bruciò il respiro, si uccise come tante altre, lasciando al padre il mondo, i suoi progetti e tutto il suo fango. Fedele al suo amore, alla musica del suo cuore, non scese a compromessi e ancora canta oggi nel vento la sua anima in ogni tempo. Padre, padre, padre, datemi la benedizione, non lasciate morire di sete il mio cuore, il mio amore, il mio cuore, il mio amore. Padre, padre, padre, datemi la benedizione, non lasciate morire di sete il mio cuore, il mio amore.